Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Oggi parliamo di tariffe telefoniche. Nel giugno 2017 diremo addio al roaming. All'estero pagheremo le telefonate quanto a casa. Non ci saranno più tariffe aggiuntive. Un enorme passo avanti verso il mercato unico digitale. Ci saranno delle eccezioni, come ad esempio i viaggiatori abituali, che potrebbero pagare un extra. E mentre si stanno definendo con chiarezza i cambiamenti per il consumatore, cerchiamo di capire con l'eurodeputata Pilar del Castillo, titolare del dossier sulle telecomunicazioni, come cambieranno le tariffe telefoniche dopo la fine del roaming. Ci saranno delle limitazioni? Si potrà acquistare una SIM in un paese diverso rispetto a quello in cui si vive e usarla liberamente? Ad esempio, si potrà acquistare una scheda telefonica in Lettonia e usarla in Italia? Sì, no ai limites, ni de voz. Non ci sarà alcuna limitazione, non ci saranno più costi di roaming, purché il contratto sia stipulato nel paese di residenza o nel quale si ha un legame stabile, ad esempio un contratto di lavoro o l'immatricolazione in università. Al termine dei costi di roaming nel 2017 aumenteranno le tariffe nazionali, si potrà scegliere la tariffa migliore in qualsiasi paese dell'Unione Europea, i limiti saranno tolti anche per il traffico dati? Non ci saranno limiti né per le chiamate né per internet. Dipenderà tutto dal contratto telefonico. Al momento, oltre al proprio contratto, quando si viaggia all'estero e si usa il telefono per chiamate e dati, subentrano dei costi aggiuntivi. Questo cambierà. Non ci saranno più differenze nelle condizioni contrattuali, nell'impiego nel proprio paese o all'estero, sia per viaggi di lavoro o personali. C'è il rischio che gli operatori telefonici aumenteranno le tariffe nazionali? Per questo abbiamo introdotto la clausola dell'utilizzo ragionevole. Chi vive in Francia o in Spagna o in un altro paese non può acquistare una SIM, ad esempio in Lettonia, a meno che non risieda normalmente in quel paese o vi abbia legami stabili e avvalersene all'estero, perché ciò turberebbe il mercato nazionale, in questo caso quello lettone. Quindi per evitare tutto questo abbiamo introdotto questa clausola dell'utilizzo ragionevole che garantisce la fine dei costi di roaming. Questo implicherà un aumento del traffico di roaming in determinate zone. Chi pagherà per il necessario aumento della potenza della rete? La potenza della rete non subirà cambiamenti, perché il traffico sarà simile a quello attuale. I lavoratori non andranno d'improvviso in vacanza 6 mesi all'estero per questo. L'impatto importante riguarderà l'aumento del traffico di dati, che richiede reti con un'elevata capacità dal punto di vista della velocità e della qualità di trasmissione. Blue Zone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus.